scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, anche oggi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura, gli incontri di Voci in Scena. Come formaggio d'Olanda, monta la luna in viaggio e il suo raggio ci manda. Nicola Olivieri, Andrea Lione e Marco Lugli sono tre cantanti e attori, ma si esibiscono in trio con i nomi d'arte di Turbina, Mercuria, Scintilla, le sorelle Marinetti. Il nome del gruppo e i nomi di scena si rifanno all'atmosfera del futurismo, di cui Filippo Tommaso Marinetti fu caposcuola. Il trio ha in repertorio brani degli anni 30 e 40, cantati nello stile del trio Lescano, il primo gruppo vocale femminile in Italia a cantare con la tecnica del canto armonizzato, già utilizzata negli Stati Uniti sin dagli anni 20. Il loro primo CD, Non ce n'importa niente, è stato pubblicato nel 2008. Nel 2010 il secondo, Signorine 900. Sempre nel 2010 sono state in gara al Festival di Sanremo cantando con Arisa il brano Ma l'amore no. Si esibiscono spesso con l'orchestra Maniscalchi, diretta dal maestro Christian Schmitz, in arte maestro Chicco Maniscalchi. Nella stagione teatrale 2013-2014 le sorelle hanno debuttato con lo spettacolo Risate sotto le bombe. Nel cast anche Gianni Fantoni, Francesca Nerozzi e Gabrio Gentilini. Quest'estate sono in scena con un nuovo progetto. Ce lo raccontano le voci in scena di oggi, Christian Schmitz, Gabrio Gentilini e Nicola Olivieri, la Famiglia Canterina. La Famiglia Canterina è il titolo dello spettacolo che stiamo portando quest'estate in giro ed è una famiglia allargata. Le sorelle Marinetti crescono e hanno nel loro gruppo due nuovi componenti, Gabrio Gentilini e Francesca Nerozzi. Come l'avete trovato, Gabrio, che è qua? Gabrio, come l'avete trovato, sorelle? Qui con noi Turbina, che non si è presentata. Abbiamo con noi la più saggia, anche la più anziana del gruppo. Ma ogni volta sottolineano tutti che sei la più anziana. Non lo so, io... Lo so, le cattiverie. Io mi ammutinerei, vedi tu. Bene. Ci siamo conosciuti nella commedia musicale Risate sotto le bombe. Esatto. Il nostro produttore, Giorgio Bozzo, ci ha visto lungo. Dopo la commedia di Risate sotto le bombe, che fra l'altro ricordiamo andrà in stagione anche il prossimo anno a novembre, ecco, riprenderà con un tour in tutta Italia. Giorgio Bozzo, dicevo, il nostro produttore che ci vede molto lungo, ha invitato me e Francesca a prendere parte a questa famiglia, ad allargare insomma questa famiglia di sorelle. Ha detto: perché non facciamo vedere anche il cugino e la cugina? e noi molto allegramente ci siamo uniti a questa nuova avventura con l'orchestra, per forza, Christian Schmitz. Ma in realtà in questo giro siamo con una formazione un po' diversa, un po' inusuale, cioè abbiamo un clarinetto / Sea Melody che è ad Alberto Ferrari, un violino che è Francesco Giorgi e il pianista che sono io, e quindi una formazione un po' strana, quindi senza la batteria, ma molto molto, diciamo, snella, molto carina e che funziona molto bene. Quindi abbiamo un repertorio che attinge sempre alla nostra realtà italiana degli anni 30-40, che è piena di meraviglie. Abbiamo avuto l'opportunità, grazie all'aggiunta di Francesca e Gabrio, di esplorare ancora altri pezzi e portare in giro in repertorio brani meravigliosi. Erano le 9, grande calma in porto, quando ai Milan radio mi chiamò. Cosa c'è per Giove? Un ferito, un morto? Non mi si rispose, ma però, oh capitan, c'è un uomo in mezzo al mare. Oh capitan, venitelo a salvare. Non sa remar neppure sa nuotar e finirà per affogar. Quel poverino per rimanere a galla, da ora sta seduto su una palla che sopra l'onda glu glu glu glu glu comincia a fare. Erano le 10, fu un presentimento che mi spinse allora a domandare: Favorisca darci qualche schiarimento. Il vostro non è solo un'attività artistica, è anche un'attività di ricerca sempre. Sì, perché diciamo le due cose vanno di pari passo. Il repertorio è ricchissimo, quello degli anni 30 e 40, e ci dà la possibilità di esplorare tanti temi diversi. E questa cosa ci ha molto divertito. Per esempio, sono venute fuori molti brani che hanno a che fare con il mare, ad esempio. Uno dei brani che facciamo a 5 è proprio C'è un uomo in mezzo al mare. E così via, insomma, ci sono varie tematiche che sono un po' inusuali, c'è il tema del mare, il tema degli animali, e fra i brani dedicati agli animali, fra cui Maramao, Pinguino innamorato, che molti conoscono, c'è anche ad esempio la canzone delle mosche, che è un brano delizioso, che invece è un po' più di raro ascolto. Non era raro che il trio Lescano, al quale poi le sorelle Marinetti spesso si ispirano, avesse delle collaborazioni con altri artisti, quindi non state facendo una violenza nel... No, è esattamente quello che succedeva in quegli anni. È tutto assolutamente filologico. Le sorelle Lescano duettavano con la Silvana Fioresi, con Rabagliati, e noi abbiamo la nostra Silvana Fioresi, che è Francesca Nerozzi, e il nostro Rabagliati, che è appunto Gabriel Gentilini. Non l'avete messo a un travestì e lui fa... No, no, lui resta Rabagliati. Siamo sweet and tie, no? Sono assolutamente completo e fiocchettino. Tante date, tra l'altro vi spingete anche in Sicilia, al mare appunto. Sì, allora saremo il 16 agosto ad Albano Laziale, è un bellissimo festival, e poi il 3-4-5 di settembre saremo in Sicilia, e precisamente il 3 a Messina, il 4 a Caltanissetta e il 5 a Marina di Modica. Beh, quindi Marina di Modica, ce ne siamo col mare. Ci sta il mare, sì. E anche il cioccolato. Meraviglia! Sì, però non bisogna mangiarne troppo, perché i costumi delle sorelle Marinetti, che sono ormai un classico... Sono anche elastici. Sono molto elastici, infatti. Ne sa qualcosa la nostra amica Turbina. Ma io non lo so, veramente, sempre presa di mira la nostra Turbina. Lo so, è il segreto del successo. Avete pubblicato varie raccolte, sì. CD, anche tematiche, perché ci siamo incontrati in periodi natalizi, ci siamo incontrati in periodi diversi. Adesso, Christian? Ma dunque, questo giro Giorgio ha pensato di fare una cosa un po' differente, cioè utilizzare questo sistema che mi sembra molto divertente, molto interessante, che si chiama crowdfunding. Cioè, in pratica, i fan stessi, le persone che amano questo repertorio o questo gruppo, insomma, possono partecipare attivamente alla produzione attraverso una donazione, e quindi a seconda ci sono vari scaglioni, non so, 15 euro per esempio hai il CD in regalo con l'autografo, 20 euro hai la foto, non so, ci sono varie cose, varie possibilità, e tutte le indicazioni si possono trovare sui siti, quindi lesorellemarinetti.it, oppure sulle pagine di Facebook relative alla famiglia Canterina o alle sorelle Marinetti, e mi sembra un'iniziativa molto bella. Voi avete peraltro uno zoccolo duro di fan assolutamente affezionatissimi, è così? Sì, sono persone che ci seguono tantissimo in tutta Italia, e hanno anche età diverse. Abbiamo persone che magari negli anni 30 e 40 avevano vissuto la loro adolescenza, poi ci sono anche i giovani che sono stati contagiati da questa passione per la musica anni 30 e 40, e anche i bambini, perché queste canzonette pulite e ben orecchiabili del nostro repertorio piacciono anche ai nostri fan più piccoli fan. Con citazione coltissima, molto pop. Gabriel, tu giovanissimo sei stato contagiato? Assolutamente, io mi sono trovato catapultato in questo repertorio che a me è sconosciuto, se non per qualche brano che tutti conoscono, tipo Baciami piuttosto che Pinguino, Maramao, no? E invece grazie anche e soprattutto al mio maestro, al nostro maestro che ci dirige amabilmente, egregiamente, ho ritrovato tutto questo repertorio squisitissimo. Per esempio, io canto in questa commedia Risate sotto le bombe, uno scioglilingua bellissimo che si chiama Miami Me Miami Miami, che è diventata il mio cavallo di battaglia praticamente. Bellissimo, sono molto contento. Bombe ridere, e se ti vien da piangere son lacrime d'amor. Ridere sotto le bombe, ridere, però non vale fingere, o non funziona più. Il pane razionato è poco tenero, non so che cosa mettere sul tavolo. Alle sorelle Marinetti non viene mai voglia di esibirsi, che ne so, in smoking o vestiti da truci, operai, metalmeccanici? Lo diciamo fuori il microfono senza sì, non, c'ha, senza non ci mandarlo sta ascoltando nessuno. Assolutamente sì, perché siamo stufi, no, di indossare le parrucche, le imbottiture, ma ovviamente stiamo scherzando. Siamo ben lieti di incarnare queste bellissime donne che poi sono state le nostre mamme, sono state le nostre nonne, che sono una qualità del femminile particolare, quindi timidamente sensuali, sobrie, eleganti, tant'è vero che le persone che ci seguono, l'80% sono donne, quindi noi siamo ben lieti di incarnare queste fanciulle. Ideale femminino. Ed è tutto per questo incontro con le voci in scena di oggi, Christian Schmitz, Nicola Olivieri e Gabrio Gentilini. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.